A tempo di sport con Carlo Genta. Come se San Siro avesse una catena umana fatta di 3-4 persone per ogni centimetro, non so, era un cordone umano enorme. Per vedere niente. Sì, sì, chiaro. Parliamoci chiaro. Sentire Pavarotti che canta Vincerò, tre video dei Galacticos e il cacà di bianco vestito che saluta la folla. Certo, no, è evidente, infatti. Cioè, infatti è qualcosa di surreale, non ho mai ragione, è qualcosa di surreale. Non so quanti sfiderebbero la calura di luglio per andare a vedere la presentazione di un giocatore a San Siro. Grazie Filippo, a presto. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie a Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Continuiamo con gli ascoltatori. Simone da Massa, Vittorio da Mantova. Simone, buongiorno. Ciao, buongiorno, complimenti. Grazie. Una domanda veloce sulla Juventus, sul mercato. L'anno scorso si facevano i complimenti sulla linea verde. Quest'anno mi sembra che siamo tornati un po' all'antica a cercare giocatori di fuori anziché valorizzare quelli che sono i giocatori del vivaio. Vedi un Decelli che si pensa che sia dal Napoli, eccetera, eccetera. Mi pare che si stia disegnando un ruolo importante per Marchisio. Decelli è un giocatore che a me piace molto e infatti faccio fatica a capire perché la Juventus non lo voglia inserire stabilmente nei suoi piani, però su Marchisio insomma ci sono idee interessanti da titolare, da uomo importante nella squadra che va nascendo. Lo stesso discorso per Ariaudo che è uno degli emergenti in difesa, e da questo punto di vista io credo che anche l'acquisto di Cannavaro sia stato molto criticato da quasi tutti, sia stato fatto anche in questa prospettiva, cioè Ariaudo può essere futuro, gli affianchiamo un giocatore che ha una certa esperienza. Io non voglio fare discorsi di rapporti con la tifoseria, soltanto un discorso tecnico. Se si vuole far crescere un giocatore come Ariaudo e lanciare un giocatore come Ariaudo, è chiaro che non si può mettere uno sbaraglio, però gli si affianca uno come Cannavaro e qualcosina può imparare in un anno, in una stagione. È ancora in linea l'ascoltatore? Pronto? Sei ancora in linea? Sì, sono ancora in linea, dico. Prego. Speriamo che sia così. Cioè, io giocatori come appunto Marchisio, ma Decelli, si parla di un terzino, un Decelli secondo me potrebbe giocare titolare e farci tutta quanta la stagione senza andare a cercare in giro a livello italiano o a livello europeo. Poi un Giovinco che ha fatto benissimo al campionato europeo, secondo me dovrebbe giocare. Con continuità. Vabbè. Ma non c'è dubbio su questo. No, ma è vero, è reale. È reale, però mi sembra che la Juventus stia... Adesso aspettiamo di capire il nome del centrocampista che si vuole andare a prendere, però da questo punto di vista mi sembra che la Juventus abbia le idee chiare e siano idee anche condivisibili, perché se è vero che è interessata appunto a Diarra e a Sneijder, sono due ottimi giocatori questi del Real Madrid, Sneijder è anche molto giovane, quindi in prospettiva può essere una splendida idea. Il problema vero della Juventus sta nella zavorra che si porta sul collo, frutto degli errori delle passate campagne acquisti, perché piazzare i vari Thiago e Poulsen non è cosa semplice. Un problema è anche Trezeguet, che non ha un mercato facilissimo, ecco. A tempo di sport. Come abbiamo detto, di Benzema al Real Madrid per 35 milioni di euro parla il Lione, non è ancora fatta. Il Lione dice: abbiamo ricevuto un'offerta superiore a 35 milioni di euro, non necessariamente formulata dal Real Madrid. Sappiamo come in corsa per Benzema ci sia anche come minimo il Manchester United, ma altre grandi d'Europa. Non è ancora stato trovato alcun accordo con nessun club, dicono a Lione. Comunque Benzema ha le valigie pronte. Vittorio da Mantova, buongiorno. Buongiorno, un piacere parlare con lei, anche ascoltarla al venerdì per il basket. Reciproco. Ascolti, ma io sono un milanista disgustato, perché con questa storia dei bilanci non ci credo fino in fondo, perché questi imprenditori hanno delle attività che prendono miliardi e miliardi di euro, sì, cioè milioni di euro. Quindi vogliono far, cioè, sarà la crisi nel calcio, ma sono soldi che possono spendere con le loro attività. invece di pagarli in tasse figurano queste società calcistiche in debito e non pagano le tasse e investono sul calcio. No, ma sì, guardi, però ognuno Berlusconi non ha 50 milioni di euro per fare un mercato. Però è legittimo, Vittorio, però è legittimo se non li vuole spendere al bilancio in rosso per 68 milioni, È legittimo, fa bene. Secondo me fa bene se un imprenditore, ma lasciando stare il caso di specie, se un imprenditore dice sono stufo di spendere questi soldi, non posso più, non voglio più spendere questi soldi, ho un buco da 68 milioni, vendo il mio miglior giocatore che è Kaká, sano quel buco e pratico un'altra politica, questo è legittimo. Ma io credo che insomma gli stessi tifosi che hanno vinto tutto e più di tutto negli ultimi vent'anni, penso che insomma, se gli si fa un discorso onesto di questo tipo non abbiano granché da dire. Andiamo sui giovani, rifondiamo la squadra, rifacciamo le cose, cioè ripartiamo ad esempio da Pato. Lui è il nostro giocatore simbolo per i prossimi anni, è molto giovane, ha 19 anni, ricostruiamo intorno a lui una squadra di giovani, una squadra che non vincerà subito la Champions League, che non sarà immediatamente competitiva per il campionato, ma il progetto è diverso. Credo che se ai tifosi viene fatto un discorso di questo tipo, insomma, è chiaro che dicono, era meglio con Gullit e Van Basten, era meglio quando vincevamo le Coppe dei Campioni con Kakà, però tutto sommato è un discorso che ha pieno diritto di cittadinanza, cioè meglio avere una squadra sana, meglio non avere devastanti buchi di bilancio che camminare su una lastra di ghiaccio come fanno i Real Madrid, club inglesi, prima o poi calcio inglese, attenzione, perché insomma il Manchester United viaggia sugli 800 e passa milioni di euro di buco, insomma sono realtà che si reggono su basi strane, su basi di questo tipo, quindi è del tutto legittimo fare un discorso di questo tipo, voler avere un bilancio diverso, voler avere una squadra che, a differenza di quanto accadeva in passato, riesce ad autofinanziarsi tra virgolette, ed è tutto legittimo, basta raccontarla fino in fondo e con la massima onestà possibile ai tifosi. Adesso però vorrei andare sulla storia di Bologna, perché appunto c'è stata questa mattina un'attesissima conferenza stampa, quella di Francesca Menarini, presidente del Bologna, che ha detto queste cose. Le notizie roboanti apparse sulla stampa in questi due giorni, direi scatenatisi da domenica e ieri, naturalmente necessitavano di un chiarimento, perché fino a questo momento non abbiamo mai detto nulla. Sono notizie inesatte, sono notizie che non hanno nessun fondamento di verità. Sono notizie che in questo momento smentiamo. Non c'è nessun passaggio di proprietà, non ci sono nuovi soci che entrano, non c'è nessun Luciano Moggi. La società resta questa, la dirigenza resta questa, la proprietà resta questa, la partecipazione nostra resta al 100%. Beh, magari non c'è nessuno Luciano Moggi, no, visto che ieri era a Bologna ed è cronaca, ha cenato con Renzo Menarini, c'era l'ipotesi Ceravolo, che pure è tramontata per bocca della stessa proprietà del Bologna, dunque al momento non c'è nessun Luciano Moggi con un ruolo ufficiale, al momento nemmeno ufficioso, però è un po' presto per chiudere definitivamente il discorso, io credo. D'altra parte, i tifosi di Bologna sappiamo bene come non fossero proprio dell'idea di vedere Luciano Moggi dalle loro parti. Sentiamo cosa hanno detto alcuni di loro dal microfono di Emilio Buttaro. Cioè, i tifosi dicono che l'ipotesi Moggi a Bologna non solo è improponibile, perché Moggi è stato per me il male del calcio ed è stato colui che muoveva i fili in un calcio probabilmente malato, dove c'erano tante connivenze, però sicuramente noi vogliamo a Bologna mantenere la nostra dignità e mantenere il nostro rapporto con il calcio, che è un rapporto nei confronti del calcio pulito. Moggi a Bologna, un'ipotesi, cosa dicono i tifosi? Io personalmente non sono contento, perché secondo me, insomma, con tutte le indagini è indagato anche per delle cose abbastanza, dovrebbe essere in galera, non può far parte dell'ambiente del calcio, e non c'è da stimarsi andare a cena, perché alla fine la voce è venuta fuori che è andato a cena perché è un amico, non c'è da stimarsi neanche avere un presidente che è amico di Moggi. Così tifosi del Bologna, voci raccolte da Emilio Buttaro che saluto, buongiorno Emilio. Buongiorno Carlo, a te e a tutti gli ascoltatori. Dunque il fantasma Boggi si è andato da Bologna definitivamente, così dicono i Menarini, siamo sicuri? Ma diciamo che i tifosi del Bologna hanno tirato un sospiro di sollievo che, come giustamente ricordavi tu dallo studio, probabilmente è un sospiro di sollievo forse parziale, perché ancora si attendono delle ulteriori come dire, dichiarazioni che rafforzino ulteriormente quanto però oggi detto in maniera categorica, come abbiamo ascoltato anche dalle parole di Francesca Menarini. I tifosi sono comunque ancora un po' disorientati e c'è da dire, Carlo, che l'effetto Moggi su Bologna è stato davvero di una certa consistenza. Fortissimo il tam tam mediatico che c'è stato con le redazioni di giornali, ma anche radio e TV locali, inondate di messaggi polemici, quasi tutti, come abbiamo sentito anche dalle voci poco fa, contro Moggi, anche se poi c'è stata anche una piccola parte di tifosi favorevoli alla clamorosa operazione. Ma poi anche su internet i sostenitori si sono sbizzarriti contro l'uomo che hanno considerato per lungo tempo come il grande nemico del Bologna. Oggi intanto ha parlato anche il patron del Bologna, Renzo Menarini, in quella tesissima conferenza stampa che ricordavi, ha cercato di parlare il meno possibile di Luciano Moggi, anche se ha ammesso di aver cenato ieri sera con lui, ha ammesso di avere un'amicizia con l'ex direttore generale della Juventus, ma ha anche negato di averlo coinvolto nelle sorti della squadra. Diciamo, Carlo, che ciò che sembrava ieri sera praticamente fatto è stato poi smentito, però questa mancata conferma dell'approdo di Moggi rende inspiegabile l'immobilismo della società sul mercato, per questo rimane ancora qualche punto interrogativo. Eh sì, perché con Moggi, chiaro, doveva arrivare Conte in panchina, si parlava di Nedved. Sì. Tra l'altro un giocatore che la piazza bolognese da avversario naturalmente non ha mai amato, non mi confermi, uno dei nemici sportivi per eccellenza, Pavel Nedved. E quindi pare che tutto questo sfumi. A questo punto si tratta di capire, facciamo finta che sia tutto vero, no? Che Moggi è soltanto amico di Renzo Menarini, che, come dice Cavalli Giglio, ognuno sceglie gli amici che vuole, grosso modo ha detto questo. Si sono visti a cena, lo stesso Moggi ha detto: Bologna è una città dove si mangia molto bene. Benissimo, hanno cenato insieme. Poi in questo viaggio, peraltro coperto da mille depistaggi, no? Perché sì, Moggi è stato tenuto quasi nascosto, è stato ovviamente nascosto alle attenzioni mediatiche, con un viaggio degno di James Bond. Facciamo finta che sia tutto finito, no? Che abbiamo scherzato, le pressioni mediatiche hanno probabilmente fatto saltare quello che sembrava un affare chiuso. Adesso del Bologna che succede? Perché avranno pur detto qualcosa i Menarini o no? Ma il patron Renzo Menarini, che ha praticamente tenuto lui la conferenza stampa dopo l'introduzione iniziale che abbiamo sentito da parte del presidente Francesca Menarini, che con questa smentita che c'è stata, il patron ha cercato, come dice, intanto ha cercato di evitare qualunque domanda su Moggi, cercando di chiudere proprio il discorso, e poi e anche voluto tranquillizzare i tifosi dicendo che non saranno traditi. Ha parlato anche del progetto dello stadio che dovrà essere fatto a Bologna, lo stadio nuovo che sarà probabilmente fatto fuori città. Poi ovviamente le domande andavano sempre verso quella direzione, e questo ha urtato fortemente la suscettibilità del patron Renzo Menarini, che ha cercato di chiudere al più presto l'incontro con la stampa. Gli è stato anche chiesto come spiega appunto questa situazione della squadra a soltanto pochi giorni dal ritiro. Il Bologna inizia il suo ritiro il 9 luglio a Sestola. Lui ha detto che al momento la squadra è così, la squadra è praticamente quella dell'anno scorso, anzi Antonioli già non c'è più, e che probabilmente le operazioni si faranno in corso, ma non ha escluso l'arrivo di altri soci, eliminando sempre ovviamente tutte le eventuali domande concernenti Luciano Moggi. Sì, ma presto a evitare, bisogna vedere questi soci da dove arrivano, perché bisogna vedere chi sono, no? Perché possono essere soci legati in qualche misura a Moggi, che quindi confermerebbe le voci. Quindi mi pare situazione in divenire. Ricordo che lo stesso Moggi ha detto, come molti presidenti mi hanno chiamato per chiedermi consigli non retribuiti negli ultimi mesi, quindi non tra questi appunto anche Menarini. Vediamo cosa succede, secondo me la vicenda è tutt'altro che chiusa. Grazie Emilio, a presto. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Presto. A presto. Sentiamo anche, per chiudere questo discorso, magari lo apriamo con gli ascoltatori, cosa ha detto il presidente della Federcalcio Abete. Che ricordare è che tutti coloro i quali operano all'interno del sistema sportivo si devono riconoscere in quelle che sono le decisioni degli organi di giustizia sportiva, che tracciano in qualche modo il confine in determinati periodi storici fra persone che in qualche modo possono svolgere dei ruoli all'interno del mondo del calcio e altri che sono inibiti e non lo possono svolgere. Questo era Abete, presidente della Federcalcio. C'è chi scrive: Alberto da Bologna, tifoso rossoblu, a me Big Luciano non dispiacerebbe. Certo Alberto, legittimo, questione di gusti, non lo so, faccia pure lei. C'è chi scrive: assieme a Repubblica potreste fare un elenco delle persone che possono essere incontrate dai Menarini, che poi lo stesso che scrive: perché non istituite i soviet del calcio dove voi decidete chi incontra chi? Ma ce ne guardiamo bene, ognuno incontra chi vuole, l'importante è assumersi le responsabilità di, non di chi si incontra, ma delle scelte che si compiono. Enrico da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Sì, la sento. Sì, buongiorno. Senta, no, io volevo solamente fare una precisazione su un intervento che ho sentito prima di un radioascoltatore milanista. Sì. Che diceva che Moratti ha speso un sacco di soldi per poi vincere qualche scudetto non sul campo. Sì, non sono d'accordo. Ecco, io penso che quel signore dovrebbe vergognarsi di dire una cosa del genere, perché se si ricorda quando scoppiò Calciopoli, il primo presidente che insorse chiedendo la restituzione non di uno ma di tutti e due gli scudetti fu proprio Berlusconi. Forse sì, aveva detto... memoria corta quel signore lì. No, ma Enrico, detto che l'uscita è stata molto forzata, no? Non vorrei tornare sul discorso degli scudetti a tavolino, in segreteria, come disse Mourinho un giorno che era imbestialito negli spogliatoi nell'intervallo di una partita a Bergamo. Non vorrei tornare su quegli argomenti. Gli scudetti a tavolino io faccio fatica a contarli, insomma. Per me quelli sono stati anni bui da dimenticare e parentesi chiusa. Sul campo l'Inter mi pare che da qualche edizione del campionato stia dominando, non politicamente ma a livello di gioco, e stiamo aspettando degli avversari, no? per l'Inter, per dare un po' più di smalto ai campionati, per annoiarci un po' di meno essenzialmente. Ma l'Inter mi sembra indiscutibile il fatto che l'Inter abbia vinto con tutto il merito del caso gli ultimi scudetti giocati sul campo. Leonardo, provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo chiederle un parere. Io sono un tifoso milanista. In questi giorni Galliani parla tanto di giovani, però io chiedo: come mai nel passato i vari Marzoratti, i vari Darmian non sono mai stati affiancati, come diceva lei, ai vecchi del mestiere tipo Maldini e Nesta? Non vorrei che fosse magari perché era Ancelotti che non voleva, che non li voleva, ecco, vorrei chiedere un parere su questo. Ma si tratta anche di capire il reale valore di questi giocatori, no? Sembrano discreti giocatori, ma non, secondo me non hanno lo spessore di quelli della Juventus, da Marchisio a Giovinco stesso, Marchisio, Giovinco, De Ceglie, questi che sono usciti dal settore giovanile della Juventus, come altri che sono usciti dal settore giovanile dell'Inter o della Sampdoria. La verità è che il Milan per moltissimi anni ha trascurato dichiaratamente il settore giovanile, e dunque non, da quel settore giovanile non sono usciti giocatori all'altezza di una squadra come il Milan, di una squadra che lottava per i massimi traguardi. Adesso ci sta riprovando, c'è anche qui un'inversione di tendenza che andrebbe sottolineata, perché il Milan è tornato a prestare, sta tornando dalla prossima stagione, da questi giorni, da quest'estate, sta tornando a prestare attenzione ad un settore giovanile che è totalmente inaridito. Basta guardare i risultati delle primavera rossonere, basta guardare i giocatori che non sono usciti da quel settore giovanile. Mi sembra che l'unico di un certo rilievo possa essere considerato Paloschi. Gli altri non saprei, probabilmente non sono giocatori da Milan, nemmeno in prospettiva, ecco. Massimiliano da Trieste, buongiorno. Sì, buongiorno. Una considerazione sulla Juve. Dunque, innanzitutto non riesco a capire perché si tenti di vendere Trezeguet. Mi sembra che l'attacco juventino sia l'unico che può assicurare almeno i 15, 17, 18 gol ogni anno, a differenza degli altri attaccanti. Poi per quanto riguarda anche Thiago, se Ferrara intende, come sembra, giocare col centrocampo a tre, sulla sinistra Thiago lo vedrei molto molto bene, insomma. E poi per Poulsen, che secondo me è molto più difensore che centrocampista, il meglio l'ha dato sempre quando tenta di distruggere il gioco avversario, e soprattutto quando tenta di annullare qualche attaccante avversario, quindi sì, lo vedrei bene anche in difesa sulla destra. Obiettivamente sono giocatori che io non scarterei così con tanta facilità, ecco. Ma Trezeguet, grazie a lei Massimiliano. Trezeguet, io ho l'impressione che è super giocatore, peraltro con diversi problemi fisici e con un contratto molto pesante. Credo che la storia di Trezeguet alla Juventus sia ampiamente finita, è giusto fare, se si ritiene, una scelta di questo tipo. Il problema è che è un giocatore, ripeto, con un contratto molto consistente. Se poi si vuole dar fiducia a chi c'è già, come a Mauri, che ha fatto una splendida prima parte di stagione, come ben sappiamo, come Iaquinta, che ha chiuso altrettanto bene la stagione, come finalmente sperano tutti Giovinco, ci sta anche che Trezeguet cambia aria. Il problema è che non è semplice trovare un acquirente, come d'altra parte ha detto lo stesso Gualigigli. Quanto a Poulsen e Thiago, mi sembra che abbiano proprio fallito alla Juventus, nonostante le prove di appello e di cassazione che sono state date loro. Insomma, sono due giocatori che sono stati strapagati rispetto al loro valore, che mi sembra tutto sommato per l'uno e per l'altro un valore molto modesto. Marco Roma, buongiorno. Ciao. Buongiorno a te. Ascolta, io volevo dire questo: noi sono un tifoso della Fiorentina, abbiamo avuto un giocatore che per noi è stato un giocatore bandiera, Gabriel Omar Batistuta. Sì. Quando è andato a Roma, nella prima partita di ritorno che fece a Firenze, ci fece un gol chiaramente con la maglia della Roma. Appena fatto il gol pianse, e questo sicuramente fa onore a un giocatore che, pur avendo cambiato maglia, perché era passato ovviamente la Roma, ricordava con molta gioia il suo passato, sì, a Firenze. Ma come è giusto che sia. Come penso sia per tutti i giocatori che hanno avuto una storia importante con un club, perché facciamo presto a definire i mercenari. Però io credo che, ad esempio, tu dico va a cacca con tutti i soldi che guadagna, cosa volete che gliene freghi, un mercenario come gli altri. Io credo invece che, insomma, quando si cresce in un gruppo, quando si arriva ragazzini e si diventa uomini in un gruppo, in una città, in un club, eccetera eccetera, credo che i sentimenti siano reali, siano veri. Poi ci sono anche altri discorsi da fare, ma quanto lei dice su Batistuta non mi sorprende per niente, perché ha giocato, è diventato importante, ha voluto bene a quella città, quella tifoseria, e quindi quelle lacrime sono del tutto giustificate, non sono certo lacrime da coccodrillo, no? Come ricordo, lo ricordiamo sempre con piacere, con una bandiera, certo, e ce ne sono poche. Sì, la ringrazio di avermi fatto parlare. A lei la ringrazio, torna a trovarci. Adesso noi però andiamo in Inghilterra da Alessandro Merle a Wimbledon. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno. Allora, Francesca Schiavone non c'è più, ma il torneo arriva, entra nel vivo, e leggevo di un'audience stratosferica per il primo match notturno sotto il nuovo tetto di Wimbledon, quello che ha visto il protagonista Andy Murray. È singolare il fatto che il tetto ha ricevuto molti elogi per la sua bellezza, per il fatto che si potesse giocare per la prima volta non solo al coperto ma addirittura in notturna. Quello che l'ha criticato più duramente è stato proprio Murray, che ha detto: ci hanno costretto a giocare sotto il tetto con un'umidità pazzesca e alla fine la palla era molto lenta, era molto difficile giocare. C'è stato un po' un battibecco fra l'All England Club e Murray. La cosa è abbastanza curiosa, naturalmente, perché Murray qui è quello che tutti sperano che faccia vincere il primo titolo alla Gran Bretagna dal Fred Perry del 1936, eppure c'è questo scontro quantomeno verbale con l'All England Club su questa vicenda del tetto. Sì, ci sono anche però 12 milioni di telespettatori che credo facciano gioco, no? A Wimbledon, agli organizzatori, agli sponsor, eccetera eccetera, quindi da questo punto di vista, cioè mediaticamente, Mare avrà il suo bel dire, però quel tetto da questo punto di vista, ripeto, ha fatto il suo dovere, ha funzionato. Senti, oggi cosa succede, Alessandro? Beh, oggi si giocano i quarti di finale del singolare maschile, naturalmente c'è lo stesso Mario in campo che giocherà contro Juan Carlos Ferrero più tardi, però al momento sul campo centrale c'è Roger Federer contro Ivo Karlovic, e Karlovic è questo croato trentenne con un fisico direi da giocatore di pallavolo, da giocatore di basket, che ha un'arma sola e servizio, basta pensare che fino adesso ha già tirato 134 ace, fino a prima dell'incontro con Federer non aveva perso mai il servizio perché appunto tira queste bombe impressionanti. A Federer sono bastati due game per strappargli il servizio ed è già in vantaggio perché ha vinto il primo set 6-3, si sta giocando adesso il secondo set, quindi credo una partita che per il divario di tecnica e di tutto fra i due giocatori sia abbastanza segnata. Poi appunto sul centrale arriverà Murray contro Ferrero. Grazie Alessandro, a domani. Arrivederci. Grazie ad Alessandro Merli, dunque inviato a Wimbledon, con cui chiudiamo questo programma. Torniamo naturalmente domani pomeriggio alle 14 con A Tempo di Sport. Grazie a Flavio Suardi per il lavoro in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Buona giornata a tutti.